gente in coppa esordi, guarda in faccia a nessuno. Io che dei carte uso, si carta conosciuto. Ma vira mie sapi, o sai che non è fornù. Si in coppa a chi lo mezzo c'è stevi, correvano a tutti i compagni mi. Chiamava te compagni mi. Sceneva nei compagni mi. Sto insieme a te compagni mi. Yeah. Ma passo rita attorno quella e poi a mano coppa coscienza. Non mi pria frai, so Dio, non ti senti. Asciuta galera, io mi appiglia dopo scaien. Mo ci pensi nei compagni tuoi, sta senza pensier. E sapevi quando va la prezzo che pava. A guerra vince chi sa pa' aspettare. Mezzo non mi assicurato, ma noi siamo armati. Rispettiamo chi spara lontano. Comandi all'altro, ma niente a te stessa. Fra non si è canza, già fa con la monica. Scarfano andata gratis, in da cucina. I fratemi sono chef, era per ristorante. Quando combattimo non si mai sportivo. Se tu fai paura, noi facciamo schifo. A notizia gira, a lancetta gira. Vide chita, fia dice tutto a posto. Fra i volevi a scuola. Ma buon manit, calo, ma che conta. E solo l'uomo esordo. Ma me lave in mano, con l'acqua santa. Perché io sai esordo, sono una cosa sporca. Che caso settimo piano. Ascensore, se fermo. Si scama a un traditore, io non ho preso in vita ma c'è. Ma c'è un esordo, guarda in faccia a nessuno. Io che dei carte use, si carta conosciuto. Yeah, un pare movimento giusto, un pare investimento giusto. Ma porta a te compagni miei, fin quando ci sono io, sanno ci sta un futuro. I paga pazzi per i compagni miei, si manna forza i compagni miei. Sono cresciuto che i compagni miei, pronto a morire per i compagni miei. Vale salirne connection, voliva futur, busta go, busta su. Navalo un coppo mica, facitava sotto. Vuoi mette Cristo è risorto. Te ne si accorto, sti rima fanno i morti. Arriva solo e assunga una roccia. Spile del regge, gli steppe i poliziotti. A tutti carcerati, vanno a braccio forte. Un miglio vero, in dato volta avuto. Racconta realtà che scottano, stepsi di scorto. Guardami, né Rolex, né cuando le ves pienso che vuoto peso, l'andata è lunga, mo ritorno, cara angola e l'ora è povera. Bo de lacrima da brucia e tu stringi ancora. Se lasci una scena fuori, poi si allungano l'ora. Si è andato in muore, già lasciata a scuola e pensa. Castra di appartenenza e lascia bella essenza. I tratti in due sporca e pensa sempre. Carraggio vale fino a femmina e ci do silenzio. E poi tutto anche lui, un man affondo una vita. E guarda fiss fiss, oggi luogo esistis. I grei e criso, l'odio a dose e miso. A raggi sa di squadra pure chi non c'ha. E mo si muoce con fuoco in demana. Mora Lucana, destini sta di miei sapi. Con mano cana, io non mi vengo mai, mai ci parla da vietro. Luca è partito e mo si ferma giù. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. E tarante. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. Una merda già so pronto, e si ne tonga, e non mi impongo come sfondo. Pensano che è New York, musica che costa poco. A raggi rinde e rino, a raggi un amo poco. Si me loco, ero a 10 anni si corriere droga. Mentre mi trono, pensa è troppo, poi parole trovo. Si ma prova, catta che la casa muove fiss. Napoli è 400 e 400, si dice bis. Stessi righe russo, colore è kill. La nera in coppo rito brilla, è condenato in mille. Ma mi savi che stessi cani, e stessi panna nasi in mano. Carne, capilla e birra, chi rimane. Per me è normale che l'amore era di romano. A notte già mi botto. Chi te ne fa un gol a chi rorma un coppa i soldi. Ci batti e porta in faccia a chi non parla troppo forte. E rispetto a chi si scorda. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. E tarante. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. Raggi. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. E tarante. Si è mi destino morire la caglia come un sperno. Raggi. C'è Tarantella, che la casa fa caccio col tiro in due portella. Si è pregiudicato e censurato, non ha importanza. Se vuoi uno buono sempre, non è mai abbastanza. Ya robo era, c'è Tarantella, che la casa fa caccio col tiro in due portella. Si è pregiudicato e censurato, non ha importanza. Se vuoi uno buono sempre, non è mai abbastanza. E Tarantella. All'inizio di questa settimana è uscita un'intervista al garante dei diritti dei detenuti di Napoli, Pietro Ioia. La vergogna e lo schifo per la nomina di uno pseudo garante dei detenuti con una carriera da spacciatore di morte alle spalle, e mettetevi nei panni di un agente di polizia che ogni giorno si confronta con una popolazione di 2000 delinquenti a dover essere sottoposto al giudizio e all'umore di uno che è stato condannato ad anni e ad anni di carcere, che adesso quel genio di Magistri che gli ha fatto una nomina veramente contro. La Lega ha fatto e farà ricorso in ogni sede possibile e immaginabile. Pietro Ioia ha trascorso in carcere 22 anni, ha sperimentato sulla sua pelle la cella zero, Poggio Reale, una cella dove i detenuti venivano torturati dalle guardie penitenziarie. Uscito di prigione ha denunciato gli abusi subiti, ne è seguito un procedimento giudiziario che ha visto 22 indagati tra agenti penitenziari e medici, e il processo è ancora in corso. Nel 2005 è uscito dal carcere, ha resosi conto che sarebbe stato difficile trovare lavoro, ha fondato un'associazione, ex detenuti organizzati napoletani. Ci occupiamo soprattutto delle persone che escono dal carcere, il reinserimento, come prevede l'articolo 27 della Costituzione, perché se un ex detenuto, uno che esce dal carcere ed esce e non trova un appiglio lavorativo, facilmente va un'altra volta nel carcere. In realtà i detenuti che vanno in carcere ne escono peggiori di come vi sono entrati, e addirittura secondo le statistiche l'80% di quelli che escono dal carcere poi vi rientrano. Anche la sofferenza che vive non è una sofferenza che ti migliora, è una sofferenza che ti arrabbia, e ti arrabbia contro la società, ti arrabbia contro quello che ti ha condannato, perché si vive la pena come un'ingiustizia. Ecco, Pietro Ioia era il primo intervistato in un video prodotto per spiegare l'attività della propria associazione negli anni, che si è spesa per un reale reinserimento in qualche modo dal basso dei detenuti, per una lotta contro la stigmatizzazione, quindi ex detenuti semplicemente persone che cercano di ritrovare un posto nella società, tanto che a fine 2019 De Magistris, in quanto sindaco di Napoli, lo ha nominato garante dei detenuti della città. Riporto alcune sue dichiarazioni rispetto all'attuale situazione strutturale carceraria italiana, della gestione amministrativa, in particolare campana, nella sua zona, e dell'alto rischio di diffusione dentro il carcere dell'epidemia di Covid. Rispetto allo stato delle strutture in cui versano queste carceri, in particolare quella di Poggio Reale, che ha sperimentato sulla sua pelle, non ha dubbi. Ci sono celle in cui vengono assemblati tra i 10 e i 12 detenuti. È una struttura fatiscente, vecchia di almeno un secolo, e in cui non esistono norme igieniche adeguate. A Foggio Reale ci sono tra i 2.100 detenuti, 5.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Sarebbe una tragedia se il coronavirus si propagasse al suo interno, una tragedia che si ripercuoterebbe inevitabilmente anche fuori. Ogni giorno il carcere è frequentato da secondini, avvocati, magistrati, quindi anche se attualmente i familiari non entrano, non è possibile prendere abbastanza precauzioni. Il governo ha predisposto di distribuire 97.000 mascherine usagetta per la totalità delle carceri presenti sul suolo italiano. Intervento preventivo che ha del ridicolo. Rispetto al decreto legge Cura Italia, potrebbero uscire al massimo 250 detenuti da Poggio Reale. Quindi una goccia nel mare, un dato del tutto irrilevante. Ci sono persone che devono affrontare ancora tutti i gradi di giudizio, c'è gente che alla fine potrebbe risultare innocente. Lo Stato così condanna anche loro a fare la fine dei top in gabbia. Non mi sento buona mamma, che mi succede? I frati mi sono fumano ancora, ed in te frasi no, sta rivoluzione. Chi se suona nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Torino. Non mi sento buona mamma, che mi succede? I frati mi sono fumano ancora, ed in te frasi no, sta rivoluzione. Chi se suona nuovo sai che è malamore. Farò in macchina, fumando in coppe cuofre, prima i fati come i clopi. E cosa rossa a chi ci prova, e troia a chi si trova. Luca produce, ed in te strofe, i poveri, e non fama che ti fanno muore. Se Torino, chi sta rindo veste buono, a moglie spenne e se pompa, aglione che penne, in Dorione, in taglio vero, t'offro un taglio a due barbiere, vota a roba, tremma mentre a stregno ferro, capatello all'ombra, frate contro a frate, mettete pure la mano in fronte, ma nato le azzago, ma capi, chi porta in masciata, sto mondo zoppo, non so piglio meglio di lui. Butto all'acqua perché l'aria chi ne raggia fra, so frate incatenato, e la vita scorre innanzi a luce, mentre fui fra, in sto camiscan, caffè latte cappuccino, femma una rirena, e a capa amica non cammino, e so cresciuto con chi venne cagna e mare. Marci in mano, sembrava studio firmata, senza bisogno dei pate e mo. C'è vira rinde in macchina, che rode più grosse, le cava nostre fanno apposta, si ci guardano, ma insomma sono classica, pisciazzi le napala, casi senta da Alessia, roba fa luccia a cattiva, e ci fa tutto quanto e tutta coca che si tira, non coppe, sposarsi, ci sono state a due sacci rellare. Mi rappresenta Vito Era, quello che manca, coppe righiera, tuo piacere, sa misura a strisce, ammirazione, perché è ricco senza rischio, a strada come ispirazione, ci trovi d'ora. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in te frasi no, sta rivoluzione. Chi se suona nuovo, sai che è malamore. C'è trovo in Torione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, ed in te frasi no, sta rivoluzione. Chi se suona nuovo, sai che è malamore. Casa Bina Cinta, che 9:21. E cellulare squilla, ne faccio 40 anni schina. Quanto costa, costa. E vira sotto a luce, a roba scava. A strada rata, nata esame, non ci pare strano. E mano in mano, che i figli nuovi si fanno uomini, prima si fa rossi, che se sai che faccio rossi. I mostro qua, con fono a mano, aspettando con sangue e papara, guardando i conti trasere, tutti i fratelli, prima bene né pomore né sa bruciano, fattramente rima non si sono né ci mandano, 1500 guardi e tu, non fermano a magune nuove, perché fanno male. Abietta a nulla, sacci capace nudo via, perché si porta a raggio mie sa via, perché se tarantella si mangia la faccia mia, e non so stanco, e ci me danno, e ci me pigli. Ammiri il rosa, e ammiricino. La musica, tu che mi risci, ti cresco muscola e vene, e carica senza tabacco, senza una braccia faccio fonere, non nilla se fa nomine che sa che tiene, chi è di casa per re, chi vuole essere ci fa vedere quanti complessi tene, copi l'accendere in casa popolare, qua di consonante, a di vocale, sta male l'ho fatto buttare, agenda nostra, a Germania, poi non metti, pochi bagagli e sordi di buste plastiche, buoni guaglioni, tutto uno stato che cappotto fa, ma senza botte, è tutto a posto, ho già vita cose, te vero è elegante, te tena un inganno. Sono ridicolo, né dico non me loro. Comunica, non giudica, l'amore è l'unico che adora ancora. E se perdi in Dorio. C'è trovo buona mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora. E di buona frase no, sta rivoluzione. Chi se suona nuovo, sai che è malamore. si ricevono di continuo segnalazioni di presunti pestaggi da parte di familiari dei detenuti. E io, che sono stato carcerato 22 anni, li ho vissuti di persona, non escludo affatto la loro veridicità. Ogni rivolta in carcere, dice, è seguita da rappresaglie contro i detenuti etichettati come disturbatori delle sezioni e violenti o istigatori. Sono vicino agli uomini in divisa, che sono lì dentro a lavorare e spesso sono trattati peggio dei detenuti. Peggio dei detenuti. Sofferenza che ti arrabbia contro la società, ti arrabbia contro quello che ti ha condannato, perché si vive la pena come un'ingiustizia. Possiamo per esempio parlare del sovraffollamento di detenuti, che a Bologna è quasi il 180%, ma la media italiana si attesta su 120-130. Le condizioni igieniche, per le quali non sempre è possibile farsi una doccia, non hanno bagni singoli chiaramente, nessuno se l'aspetta. Molti sono malati o tossicodipendenti, vengono distribuiti gli psicofarmaci con un dosaggio obbligatorio, per cui se ci fosse qualcuno che volesse rifiutare, questo costituirebbe un problema. E anche gli operatori medici o semplicemente il supporto psicologico chiaramente hanno una disponibilità bassissima nelle carceri. Si parla nella media di poche ore a carcerato all'anno. Contro la stigmatizzazione dei detenuti tossicodipendenti, un appello perché venga detta la verità completa rispetto a queste morti, venga documentato il referto medico, il rilievo dei metaboliti presenti nei loro corpi, e quello che sottolineerei è che sarebbe anche da spiegare come mai non si avevano a disposizione il Narcan e l'Anexate, che evitano l'uno le morti da overdose da oppioidi e l'altro da intossicazione acuta da benzodiazepine. Il Garante Nazionale dei Detenuti però non si è ancora espresso nei riguardi di questi minimi dettagli. Vecchio, presidente del Forum Droghe, mette in dubbio che, se come è stato diffuso, che le overdosi siano state dovute a una mancata assuefazione da parte di chi avrebbe assunto metadone, si chiede per quale motivo dei detenuti che non sono in crisi di astinenza, in quanto non abituali assuntori, abbiano dovuto assaltare l'infermeria e rischiare un sovradosaggio. Peraltro, quando il metadone dovrebbe essere custodito a chiave in altri spazi rispetto a quelli degli psicofarmaci. Ribatto